quella che accompagnava le sfilate di moda, eccetera, eccetera. Vabbè. Già te la posso vedere, non so se ci sei su Facebook mio. Non so se ci sei, se no avresti visto la mia sorella Monica. No, non ce l'ho, no. Non ce l'ho. Il tuo Facebook non ce l'ho. Vabbè, comunque, già ci credo che canta, no? Anche Emanuela canta, poi so che Monica faceva anche teatro, mi sembra, vero? Quando era più giovane ha frequentato molti locali, molto più di me, quando adesso si è fermata, dove facevano karaoke quasi tutti i giri a Shantemme, quindi ne ha avuto esperienza pure lei. E poi quando diventi madre, cosa, c'è famiglia, cosa fai? Quando si annoia canta a casa. Fa bene, almeno si diverte. E tu stai cantando, Vittù? Sì, sto facendo anche caro, qualche volta, non è sempre, perché io il tempo a disposizione non ne abbiamo più tanto. Niente, sto facendo qualche cosa a Porto Torres. Ah, stai facendo serata? Cappa. Ah, ho capito. Porto Torres, che locali vai? Guarda, un circolo che c'è, entrando a Porto Torres, c'è una farmacia lì, la prima farmacia che c'è sulla destra, entri lì e rimani dietro alla città satellite, quella zona. Ah, ho capito. Sì. Ma che locale c'è? Non ce l'ho presente. Io conosco bene Porto Torres, se premetto, però lì i locali non mi ricordo che ce ne siano, perlomeno, a meno che abbiano fatto questi 2 anni che io manco da lavoro. No, c'è tantissimi anni, non c'è, almeno 10 anni, però adesso ha cambiato gestione, nel senso che ha acquistato questa ragazza, questa donna, ha acquistato il locale proprio, e quindi ha ripristinato tutto quanto, è un bel locale, è un circolo grande, sono più di 100 metri quadri, si lavora bene, niente, sabato sono lì. Ma per caso il satellite si chiama? No, ma della verità adesso non mi ricordo come si chiama il locale, devo fare la locandina, adesso vediamo un po', non mi ricordo come si chiama il locale. Capito. Se capita un giorno venga a vederti. E perché no? Ma la zona di Sassari non ne stai facendo? Sì, però a Sassari c'è mia figlia che lo fa, in via Sardegna, adesso non so se è questo sabato o l'altro, poi Alghero. Tua figlia? Ma è vero? Sì, mia figlia per caro, che c'ha 40 anni, è 20 anni che lo fa. Ma... Paola si chiama, no? No, negativo, si chiama Annalisa. Forse ho capito. Bionda. Sì, forse ho capito, perché in via Sardegna qualche volta ci vado. E allora ci saremmo visti lì. Potrebbe essere, qualche serata, potrebbe essere che ci siamo visti. No, quella che stai dicendo tu è Paola De Martis, no, quella è un'altra, però non... non vabbè, non... No, già sì, una persona come si deve. Sì, ma no, Paola è un altro lavoro. Lei fa il karaoke, ma è una specie di, come si dice, fa un po' di spettacolo così, capito? Sì, mi sa che ho letto anche la locandina, aspetta a vedere quando è. Se avevo letto qualcosa, avevo letto. Lo fa per lui, dai, per arrotondare. Esatto, perché lì c'è una buona pensione anche, quindi lo fa, sì, per divertirsi, però ultimamente ci sono stati degli iscritti in tutto questo contesto e quindi ha un po' mollato. Vabbè. Succede perché c'è anche molta rivalità, invece dovrebbero essere tutti uniti, quello che fanno lo stesso lavoro, le stesse cose, dovrebbero essere uniti invece che stare a scornarsi. Già, ci sono gelosie, purtroppo c'è chi canta meglio, l'altro è geloso, a me è capitato di entrare una volta in un locale e sentire alcuni personaggi che quando cantava, quando c'era questa persona che faceva la serata, un altro dice esci, vado a fumare una sigaretta, e se non si va fuori per non sentire, ma scusa un attimino, perché siccome chi fa il karaoke non è che canta sempre lì, cantano chi devono cantare, allora in quel momento una si dà una pausa e poi dopo 10 che cantano, alla fine questa persona canta anche lì, una le può cantare, una o due, mentre cantava esce, me ne vado pure a fare una sigaretta, e si è capito che non gli era simpatico. Eh beh, che quando fanno queste portate poi. No, io la verità nei locali non ho mai cantato perché un po' mi vergogno, però a casa canto, anche a casa di amici quando lo facciamo, ma nei locali un po' mi vergogno, la verità, vorrei farlo però mi vergogno. Ah, guarda, non ce n'è vergogna, tu chiedi la canzone, intanto ti devi avvicinare a chi lo fa e dici, ma ce l'hai questo brano qua? Certo che ce l'ha, figura che non ce l'ha, scrivi il pezzo che ti interessa, la canzone, poi tu come ti chiami, in maniera che poi quando arriva il tuo turno ti chiama per dire che sei tu, insomma, che devi cantare. Sì, chissà che me ne fa da yo-yo, sai care, chissà di Tiana, la conosci? Non ho capito, tu hai cambiato frequenza? No, già sono sempre qua, ho detto, quella che me ne accesa da un po' da yo-yo è quella di Tiana. Mi sento. Capito, mi senti? Ti sento bassino, Beh, ho abbassato un po' di potenza, non mi ero accorto che c'era una cosa. Ti stavo dicendo, quella di Tiana tu la conosci? Tiziana? Sì, quella proprio lascia perdere. No, negativo, non la conosco. Io lascio perdere. Ma molti si improvvisano, vogliono purtroppo lavorare, io lo capisco, non hanno lavoro, con questa storia di reddito di cittadinanza praticamente stanno lavoricchiando, cercando di sopravvivere, e alcuni si sono praticamente introdotti a fare questo lavoro qua, ma non c'è professionalità, un minimo di professionalità ci vuole, ahimè, io per carità non voglio sparlare, però se non sei capace di fare questo lavoro, lascia perdere, fallo fare a chi già c'è ormai anni. Sì, beh, devo imparare, ma impari, quanto tempo ci vuoi a imparare? Non puoi stare 20 anni imparando e rompendo le scatole agli altri. Purtroppo tutti devono lavorare. E Alberto lo conosci? Raga, certo che lo conosco, visto che vado a cingiare. Bravo! Sì che lo conosco benissimo. Mi ha venduto l'Itativi, mi ha venduto anche. Già lo conosco, Alberto Carboni si dice. Ehi. Certo che lo conosco. È un amico mio. Gli ha reso due strisci già. Sempre trallazzato, vedi quello, vedi l'altro. Furbo è Alberto. È un allevatore anche lui di uccelli, lo sai. Sì, sì, Otto. Già lo conosco. È poco il lonfio. Ci sa fare. Già te ne racconto una quando ci vediamo di persona. Va bene, dai, io vi saluto a tutti quanti, io vi devo lasciare, ciao ciao. Ehi Antonà, ci sentiamo. Avanti chi c'è sul canale 10 che vuole entrare. Ciao Antonio, buon proseguimento di serata. Ciao Giovanni, ciao Antonio, ci sentiamo. Ciao Giovanni, ben sentito, avanti, sono in compagnia dell'amico Volpe. Poco l'ho sento, quasi niente l'ho sento. Perché siete in punti diversi, da lui è verso Monteoro, tu sei al terzo pezzo, è tutta la zona diversa. Comunque l'ho saluto, dai, fai un passaggio, la fate via, non so se mi sente. Vito, lo senti? No, negativo, sento la modulazione, ma non capisco cosa dici. Ti ha salutato, ha detto che anche se non ti sente bene, ti saluta lo stesso, dai. Ricambia se puoi, io non lo ascolto come. Vittorio sta ricambiando, dai, saluta. Allora Giovanni, come siamo messi? Io sempre meglio, dai. Tu sei il gioco qua di questo allevatore, chi è? Scappa, ti interessa un luri? Che gara che volete portare? Lo sta uscendo. Chi è che sta mettendo la portante? Venga fuori. Mani in alto. Non ne vedo portante già. E allora eri tu che non uscivi. No, negativo, il portante non ho, io non stavo modulando. Sei tipo a te dicendo che io sono portante. L'hanno messo. Vabbè, avanti Giovanni. Non sento neanche a lui, chi è? Chi è entrato? Nessuno, Giovanni. Stavano, non so se non sia uscito qualcuno, però c'era una portante. Svezzati li hai, i lori? Cosa? I lori li hai svezzati? Li hai svezzati? No, ne ho tre, ne ho, capito? Uno lo sto dando perché non vanno d'accordo tutti e tre insieme, quindi uno abbiamo... Di cosa lo sto dando? Lo sto vendendo, dai. Cosa li vendi? Per curiosità, solo per curiosità. Non ne parlo qua, dai. Queste cose le parlo in verticale. Li puoi vedere, li puoi venire a vedere, tu là. Non c'è problema. Ho capito, no, ma non avrei neanche il posto. Non saprei neanche dove metterlo, Gianni. Ma è lui arcobaleno, è un pappagallo che parla, Questo ha tre mesi. Non so proprio il posto dove metterlo, capito? Non saprei dove metterlo. In campagna lo puoi fare tranquillamente, la gabbia la puoi fare, basta avere dei fili e cose, la costruisci, c'è la bulloni e un po' di quel ferro a L e te la fai. Quelle che sono le ho fatte tutte quante io, ma cazzo gli hanno dato 4, anzi 5, 4 a così. Ma voliere? Voliere grande, va bene così, dai. Ma non ne hai gli animali che parlano, questi parlano, capito? Ma mi dice aiuto, vieni, andiamo, aiuto, ciao. No, non ha più gana di capre saeti, no. Non è più pazienza, no, vabbè, già mi piace. Vittorio, a te gli animali piacciono? Beh, devo dire la verità che gli animali non ne ho qui a casa, molti hanno cani, io non ne ho mai avuto, non mi sono mai interessato, via. Vabbè, ma ognuno c'ha il suo modo, io per dire ho sempre allevato uccelli, canarini, cardellini, verdoni, ho avuto sempre gli allevamenti, li allevavo, li vendevo, li regalavo a chi volevo io. E adesso però c'è roba costosa, i lori costano 300 euro l'uno, costa. Ne ho tre. Perché ne ho tre? Perché uno mi era scappato e allora sono ordinato subito l'altro, perché poi se no non li trovi, e me l'hanno portato adesso che c'ha tre mesi. Però mentre mi portavano questo, io avevo messo su Facebook che l'avevo smarrito col numero di telefono, e mi hanno telefonato e sono andato a ritirarmelo a casa di uno qua vicino. E quindi l'hai recuperato? E quindi adesso ne ho tre, sì, l'ho recuperato. Infatti a quella signora gli ho promesso e glielo do, gli do uno di questi che sono nati adesso e uno glielo regalo. Una buona cosa quello lì. Però solo che adesso me ne sono trovato tre, c'è una coppia già fatta, capito? E non lo accettano. E comunque già sai come gestirsi. Sì, c'ho il terrazzo, vabbè, io l'ho messo in rimetto il terrazzo, c'è una veranda chiusa, scorrevole, posso chiuderla quando voglio, aprirla quando voglio, quindi c'è il posto, capito, per metterli. Però se trovassi da vedere, gli altri sono già addestrati, vivono sulle spalle, stanno tutta la mattina attaccati a me, io li libero, stanno sulle spalle, qualsiasi cosa facciano stanno sempre attaccati a me, poi si fanno qualche volo attorno alla stanza e poi se ne vanno da soli in gabbia. Perché sono ormai ammaestrati, li hai vissuti così, li hai cresciuti in quella maniera lì. No, non ne ho passione così, non ne ho tempo di fare purtroppo questa roba qua, capito? Ma io adesso sono in pensione, carissimo, quindi qualche cosa la devo fare, no? Poi l'ho sempre avuta la passione, per cui a me piacciono, solo che ti ripeto, l'avrei messo nella gabbia con gli altri, però lo stavano beccando, quindi non fa farlo ammazzare, è un pappagallo che vale 300 euro. No, il pappagallo, guai, non si devono ammazzare quegli animali, sono protetti anche, non credo, quindi perché uccidere le poverine? No, vabbè, c'è questa passione, chiaro, c'è chi ce l'ha, chi non ce l'ha, io purtroppo non ce l'ho passione, non ho tempo, perché mi dedico a altre cose, anch'io sono in pensione più di 20 anni, però mi piace, sono appassionato di musica e suono, non ho tempo tempo di gestire altre attività. Sì, scherzando, sta, ci vuole il documento CITES rilasciato dalla forestale. Se non c'è quello, te lo trovano senza CITES, documento che ci vuole d'accompagnamento, dove c'è scritto tutto quanto, il numero di serie del pappagallo, eccetera eccetera, che razza è, eccetera eccetera. Chi vuole mi fa anche il microchip, io c'ho anche uno che ha il microchip, gli altri no, ma uno sì c'ha il microchip. Quello che mi è scappato proprio aveva il microchip in più, io ho scritto su Facebook che non si poteva tenere perché se veniva trovato senza documentazione erano cavoli. Infatti subito mi hanno chiamato, la verità, l'hanno tenuto 3 giorni, poi mi hanno chiamato, sono andato e me l'ho ritirato. Meno male, perché potevano far andarlo male. No, era gente in gamba, gente che aveva anche un coniglio in casa, quindi è gente che ama gli animali, dai. E l'hanno dato da mangiare tutto quanto, purtroppo erano una gabbia di un coniglio, perché loro c'erano il coniglio l'hanno tolto fuori dalla gabbia, che c'è anche il lettino, era nel lettino quando sono andato io e hanno messo il pappagallo al posto del coniglio, capito? Però grazie a Dio ho trovato persone in gamba e anche oneste. Sì, meno male. E io quella persona le premio, gli ho detto che si stava già affezionando, gli ho detto signora lì stia tranquilla che io uno quando cresco non glielo do. Ma davvero sì, se mi fai questa cortesia mi piacciono molto. E ho detto non si preoccupi, glielo faccio a me. Questa è la storia, amico Giovanni. Ti sto ascoltando già, non sto entrando perché non sento, non so quando sta parlando lui, capito? Non mi voglio intromettere perché non so quando parla lui, non lo sento a lui. Ehi, aspetta, cioè, io glielo voglio dare perché è stato onesto e me l'ha tornato, non è niente di legge che le spetta nulla. Lui a me me l'ha voluto tornare perché uno che non sapeva cosa dare da mangiare e ha telefonato a questo suo amico che ci aveva i pappagalli, ha detto guarda che c'è un signore su Facebook che lo sta cercando disperatamente ed abita vicino a te, ha messo il numero di telefono, gliel'ha dato e lui subito mi ha chiamato, la verità, sono stati onesti. E me lo sentivo che lo trovavo, passavo sempre quella zona lì, proprio sotto il palazzo dove c'era lui, io sentivo il richiamo suo, però dice voi magari è uno uguale, magari qua, magari là, e invece era proprio in quel palazzo. E beh, molti siete, Pitu, Giovanni. E già ci sono, già sono in ascolto perché non so quando parlano gli altri, capito? Non voglio disturbare. Perché stai disturbando, no? Io ho chiamato a Vittorio, non risponde, cosa c'ho, Calasura, mi nato a lui. No, già, intendo solo a te, compreso, a voi intendo che sei bravi denti, sicuramente sei bravi denti con qualcuno, e non so quando fini di ragionare isso, tutti i giorni. No, non c'è problema, io sto parlando per tutti, lo sto raccontando, basta, tutto lì. Vabbè, comunque tutto bene, ciò che finisce bene. Sei stato fortunato a ritrovarlo già. Ha fatto, cosa ti posso dire, 150 metri da casa, è andato in un altro terrazzo, è scappato dal mio terrazzo e è andato là. Ma io e voi sono abituati, entrano negli appartamenti, dai. A me è fatto quella canarina che mi è scappata, non è più ritornata. A me canarini, non so se sia io che gli abbia chiuso male la gabbia, gli avevo aperto la veranda per entrare un po' d'aria e guardo la gabbia, cazzo, non c'erano più 4 canarini. E dove sono finiti? Guardo tutte le parti, guardo giù e li vedo volando. Ho preso il coppo, sembravo qua, uno scemo ce l'è presente. Ho preso il coppo, quello che usavo per pescare, che si umano bello orato. Ho allungato il coso, il manico. Quando sono sceso giù, ha chiappato 2, uno non sono riuscito a trovare, erano quelli fattore rosso, vedi, quelli belli. Quelli, cazzo, l'altro giorno sono andato al negozio degli animali, cazzo, li prendono un casino di soldi. Ma quello lì è, capito, è un meccano come Cristi. Ui. Le cose, quando c'avevo, come si chiamano, le cave peruviane che facevano i fili, me li pagava 9 euro l'una e poi lui li rivendeva a 30 euro, 35 euro. No, non ho mai allevato di quegli animali, una volta solo, ma tanti anni fa, i criceti, già, se voi adesso si mangiano, non li fa andare a fantasia. No, i criceti li ho avuti anche io, si mangiavano le teste dei fili. Vabbè, io ho avuto un po' tutti gli animali, ho avuto anche gli scoiattoli. Quelli mi piacciono davvero, tanti anni fa ero sabbia nelle tre con lo spogliato, quindi sta a correre, cazzo. Ma forse correvo così forte perché lo spogliato lo aveva morso alla mano e io gurrivo come se un dipirato. A me una volta mi è scappato a casa, saltava sui mobili, ma io ne avevo uno che era domesticato, la femmina si faceva prendere, accarezzare, tutto quanto, un maschio era amaro che urlava, ti morsicava. E poi si vedeva che la femmina si faceva prendere e quando rientrava la morsicava, era geloso. Era di goiti. Spero si riesce a trovarmela questa canarina. Cosa? Non ho capito. Se riesce a trovarmela, se sai qualcuno che riesce la vende una canarina bianca. Bisogna dirlo Alberto a vedere, perché i canarini non ne sto più trattando. Sto trattando i pappagalli, ti ho detto. E se sento volentieri, io ho un amico che ha allevamento, c'ha canarini, verduni, cresciuti da lui. Gli hanno fatto anche i piccoli verduni. Chi è quello che si è trasferito a Tisti? Cosa? Chi è quello che si è trasferito a Tisti? No. È un amico che abita qua vicino a casa e ce li ha nel garage, ce li ha gli uccelli, infatti un po' sono sprecati, non li vedi mai in garage, cosa li tieni a fare in garage? No, io ho usato pure, guarda, come se sono cavati, dai, se canta è ad avanzare lì, cazzo, vedo che danno da mangiare i piccoli, si sta covando e tutto, cazzo, quello che sia. Quindi ne hai in cova? In cova ne ho una ne ho in cova. E a me mi hanno già fatto i piccoli, ce ne ho quattro e sono già granditi, stanno già cominciando a mangiare, sono usciti dal nido due o tre giorni fa. Sì, i piccoli ce li ho anch'io, cazzo, a febbraio avevano i piccoli, cazzo, li avevo dovuti prendere, cazzo, perché c'era troppo freddo, troppo vento, e li ho tirati su, se no io su con la siringa li ho tirati. Col birri, col Nutribirri 21. Positivo, ma adesso questi che stanno facendo adesso li rilascio, non li so più, ormai è già bello il tempo. E invece la mia compagna non mi ha voluto dare retta, quando sono nati praticamente, di solito si fa così, tu lo sai benissimo. Qua uova finte non è vero, non l'ho mai visto. Di solito si mettono le uova finte quando fai le prime uova e poi all'ultimo uovo si mettono tutte insieme, di modo che nascano tutti insieme i figli. E invece qua uova finte non se ne trovano quelle per i pappagalli, non l'ho mai visto in nessun negozio. E niente, li abbiamo lasciati, però ho detto alla mia compagna, adesso quelli piccolini li alleviamo a mano. No, lasciali fare alla mamma, io non me l'ho necchicciato, capito? Quelli più grandi, diciamo, di sopra l'ho trovato schiacciato, sembrava stirato. Quella è una grossa perdita, se uno che lo fa per commesso si deve stare attento a queste cose. No, ma io lo faccio per ubi, non per commesso, lo faccio perché mi piacciono gli animali tutto lì. Lo so già, anche a me piacciono, però se posso salvarmi un canarino, cazzo lo salvo, se è vero che una mamma imbecca poco rischiano di morire di fame, quindi di un biglio e me lo campo. Anche io facevo così con il canarino, ma ho avuto da retta, siccome sono i suoi quelli, e le calopsite sono le sue. Adesso ho fatto un incrocio io, quello che ci sono come si fanno, che ho detto l'altra volta, però lo sto studiando, perché sta sempre imboccando la canarina, va e la imbocca sempre, però cazzo devi stare attento, se cioè devi rompere le uova, capito? No, io guarda, ho tutti i maschi in gamba, perché danno da mangiare i figli, li covano le uova, li danno il cambio, quando la femmina esce va anche il maschio a covarle per non farle raffreddare, poi finita di mangiare la femmina rientra e il maschio se ne va. Ma questo è un ibrido, è capito, cioè non è un canarino, è un canarino impostato con un'altra razza e dunque devi stare attento. Adesso finché sono in natura non corre, non succede niente, in libertà, ma in gabbia questo cazzo dell'uccello bisogna tenerlo un po' sotto controllo. E verdemini, ma hai fatto accoppiare lei col canarino? E ne ho fatti di tutti già, tutti li ho fatti, tutti qua, anche carlino, verdone, zuccherino, di tutti li ho fatti. E allora già sei esperto, va. Vabbè, io ho avuto un po' tutti gli animali che si possono tenere in casa, li ho tutti avuti, tranne animali grossi, però quasi tutti li ho avuti, acquario, ce l'ho tuttora, l'acquario tropicale. C'ho il cane, c'ho tutto, non mi manca nulla, un bel di spesa c'è, quello sì. Appunto per quello, quando ti dicevo prima, cioè uno quando alleva qualche cosa, almeno le spese ne le deve tirare, cioè poi soldi non ne fai, perché soldi non ne fai, però cazzo, le spese me le tiro, e poi la passione nostra è vedere come allevano tutte queste belle cose, dai. I loro se li vendi bene, dai. Minimo che li vedi sono 300 euro, se no 350 li vendono circa. No, io lo do 300 come l'ho pagato, se c'è qualcuno che lo vuole, l'ho messo anche su Subito, eccetera, eccetera, su quelli dei pappagalli, sui siti dei pappagalli, eccetera. Se lo vuole qualcuno lo paga come l'ho pagato io e glielo do, se no si abbina in luce. Io invece devo dare 4 anatre, 3 femmine. E un maschio. Che te dovrei mettere la vasca da bagno? Qualcuno che c'è la campagna già, no? Non ne ho io campagna, no, non ne ho campagna. La campagna sinceramente mi piace solo per farmi le divinate, non sono appassionato della campagna. Mi piacciono gli animali, sì, però la campagna troppo si lavora, io ci ho lavorato in campagna, quindi so cosa vuol dire. Ci ho lavorato quando ho finito di studiare. La madre di un amico mio aveva 7 ettari di terreno di vigneto e 7 di olivetto, non ti dico altro. E cosa vuoi che sia per uno che fuma? Vanno bene, capito? 500 metri vanno più che bene. Ah, per famiglia sì. Ma Antonio era Natalia, Antonio Tirocca. Ehi, già ho capito. Se non vendeva olio, vendeva vino, si faceva i soldi. Lui aiutava il padre quello che vendeva lo dava loro, i figli. Infatti. Però dovevano lavorare, sennò nuda. Mi sembra più che giusto. Si lavorava nel terreno, io aiutavo, guidavo il trattore, tutto quanto. Quando vendemmiavamo la vendemmia, l'uva ce l'aveva giù. C'aveva l'uva spaliera, c'aveva quelle viti normali, c'aveva delle viti che c'avevano un po' di anni, del nonno. E andavamo col trattore giù, col carrello, caricavamo, tagliavamo l'uva, la mettevamo nelle cose, nelle ceste, e poi la caricavamo sul trattore, poi quando era bello carico la salivamo su, c'aveva un vascone enorme, con la manovella, girava per macinare, poi ci aveva messo il motore dopo un po'. Dovevi salire su questa cassetta per essere più alto, questa manovella era enorme, grande, e dovevi girare, e faceva, dai, io giro in fretta, io poi si dava il cambio, lo collato, poi i bracci a picchi. E in campagna vedava. Poi portare le vigne, tutto, a me mi pagava, io andavo perché mi pagava. E te credo. E in più mi invitavano a pranzo quando tardavamo quei lavori, noi stavo a pranzo, vabbè, io ero di famiglia, con Antonio eravamo proprio come fratelli. Sì, già lo so. Giovanni, c'è una canarina per il mio canarino. Mica sta cercando un canarino bianco, ascolta, tu il numero di Ferrarese ce l'hai? No, non lo so. Poi Bianchi non ha Ferrarese, no? Chi ha di spagnoli? E Bianchi non li ho visto. No, io qualcuno gliel'ho visto di bianco, la seconda volta che sono andato. Ne avevo preso anche uno io bianco, ce l'avevo anch'io. Però era bianco e strinava delle striature nelle ali. Sì, è che l'ha incrociato, aspetta che guardo se ce l'ho il numero. Dagliela a Giovanni, che Giovanni sta cercando una femmina bianca. Giovanni. Mi ascolto, sono in ascolto già. È quello di San Giovanni, ma è andato sì. San Giovanni è quello di Ottava. No, ce n'è una anche a San Giovanni. No, questo San Giovanni non lo conosco allora. Il Natalino aveva comprato canarini da quello. Mi pare che gli ha regalato anche la gabbia. Ehi, non ce l'ho quello di Ferrarese, no. Capito, non ce l'ho. Ho controllato e non l'ha giù. è quello di San Giovanni da Tarino. E neanche. Quanto tempo è questa Zuri? Io sto cercando una femmina per quello che io che me l'avevo ammazzata. No, per una fattore rosso, spendi 30 euro, però c'è un canarino bello. Ma questo che io è giallo. Beh, fa arancione, rosso e giallo fa arancione. Se si mischiano i colori esce così. Cavagava. Sempre che ne facciano di figli. Beh, chi che cazzo di no che non hanno fatto. Che strano. Strano ma vero. Io te lo ricordi. E tu, Giova, l'hai mai fatti accoppiare d'inverno? Io ce l'ho all'aperto, però qua a febbraio io ce l'ho già i piccoli e sapevo. Io dico una cosa, in pieno inverno li ho fatti accoppiare con la luce, li mettevo dentro casa, sul tavolo c'era la luce come forte di quelle lampade, quelle al coso, cazzo che sono ben potenti, quelle grosse che vedo, e noi facevamo la luce bianca bianca. Beh, lo sai che sono nati figli tutto qua, te li ha portati a vanno. Quello lì è il sistema che usano gli allevatori, luce artificiale, si chiama, cazzo, praticamente quelle luci stanno accese giorno e notte. Io alle 9 me la spegnevo, alle 9 spegnevo tutto e me la levavo. La temperatura era 21 gradi e infatti ho fatto un allevamento artificiale. Un appartamento che si può fare, già va bene, i migliori cazzo comunque sono sempre i primi e gli ultimi, capito? I primi nati, quelli che riusciamo a fare a febbraio, a marzo e poi gli ultimi, quelli che riesci a fare a fine stagione, dai. Quanto è che ve li fai fare? No, io ce l'ho quest'anno, li ho buttati dentro la voliera e sono per il capito, no? C'è altro da fare, capito? Però vedo che sta andando bene, gli do una mano, non è che abbiamo bisogno, te l'ho detto, se vedo qualche canarina che porta poco entro, gli do una mano a imboccare i piccoli, capito? Bisogna andare in panico in questo periodo, che è il periodo pastoncino, panico per rinforzarli, perché sennò li butta giù. E non devi far fare molte di cover, sennò ti la grippa. Avanti, Natalia. E cappa. Ma io sono indeciso se prendergli alla femmina o no. A chi c'è l'offio? Che quello lì li vende un bel, i canarini, quelli arancioni, quelli fattore rosso. Mi pare che con 39 euro, una cosa del genere in uno. Ma chi? Quello che ci sono stati al mio. Ma se andavano a Turugu, vieni e lughimi, non devi andare a comprare, non pigliare un cazzo a isso. E dove vai? Via dei Mille c'è me, ce n'è uno. E c'è anche per salire a Piazza Vecchini, c'è Predanieda. Per salire a Piazza Vecchini, e dove? Vicino a Piazza Vecchini c'è un negozio di animali che è quello di Predanieda, che ne ha due negozi. Quattro zampe, mangia una lì che manca, che sono i due. E quale? Quello di Predanieda? No, quello del quadrato. Non c'è più. Sì, già una lì, stata lì, c'è finalmente. Ha chiuso. Sono andato a prendere roba, non c'era, poi non c'aveva quasi nulla quello lì, c'è più fornito quello di Predanieda. Quattro zampette. Sì. Sì, ho capito. Io gli ho venduto tutti i canarini a quella lì, e li ho venduti tutti quanti, quelli che avevo, gli ultimi, li ho tutti venduti. E scappa. Prima mi aveva detto che ci voleva la fattura, un po' di scuse, e dopo che aveva aggiunto che mi davo a 0,1 la piglia di tutti. Io lo credo, tanto che si rivende a 30. Beh, poi erano tutti belli, fattore rosso, Agata, tutti quelli belli c'ho avverso. Io lo so. Io avevo una gabbia manna, tutta piena di canarini. Roba di casino, Vaziani. Qua cantavano così bene, la mattina, guarda, era una delizia sentirmi cantare. Ma la propagazione si sta alzando, la salita. Ehi, lo so. In 10 mesi c'è gente parlando. Oh, yeah. vabbè, se vuoi una mano andiamo. Vabbè, andiamo, impari. E ti rubini. E lo prendi giallo lo stesso. Cosa, non c'è bisogno di pigliarti quelli russi, ti rubini giallo. Solo che quello lì se li vende a 39 io non glielo compro. Giovane, canarini gialli femmina. Giovane. Negativo, non ne ho. Perché Natalino ne stava cercando un femmina. Già lo sa Giovanni, solo che non è. Sto cercando anch'io, te l'ho detto, ma ne serve una femmina bianca. Bisogna andare a vedere lì in via dei Mille, a Predanilla, se lo trovi. Magari ce l'hanno bianca. Oh, quella quattro zampette non ne ha quasi mai uccisi. Ce li aveva quando era a Tiene, aveva una decina, e lo ti vedo io. Quella è Predanilla. Quattro zampette, lì li ho venduti. Sono venduti l'ho fatti con la gabbia, se li ha comprati tutti. Tutti uno più bello dell'altro. Arancioni, portoghesi, di tutti i colori. Quelli col ciuffo sono belli. Ti piacciono a te quelli col ciuffo? Oh, Giovanni. No, negativo, i blocker, no, non mi piacciono. Walker, sì. Vabbè, poi ci sono anche quelli che c'ha Alberto. Quella razza che c'ha Alberto, ci sono alcuni che hanno il ciuffo e alcuni no. Alberto chi? Come si chiama? No, non si chiama. Come si chiama? Quello di Ottava. Come si chiamava? Non me lo ricordo più. Ah, il poliziotto sta dice. Esatto. Quello ne aveva biglie. Lo so. Io non lo va via a Diamantini, io ho fatto una via. Sì, si aveva fatto la voliera, Edu. Lui se l'ha fatto pure. Infatti. La moglie dice che gli ha detto, sbarazzate di tutto, cosa te ne fai? Ti fa spendere un bel di soldi, lavori per gli uccidi. Non è più quello. Sì, che ce l'avrà ancora. Il cavolo lui partecipa anche alle gare, già lo sai. Infatti, c'aveva i cosi. Bah, che ce l'avevo pure io una coppia di quelli. Ehi, sì, erano belli, quelli lì. Non mi ricordo che razza è, lavoro, non me la metto più la sai, sono diventati di 20 anni. Portoghesi mi pare io. No, quelli lì erano i ferraresi portoghesi. Fabrizio, quello di Ottava, è pieno, io l'ho sentito l'altro giorno, è pieno. Ne ha un casino, ne ha. E pigliati una femmina da Fabrizio. Ce l'ha bianca, non ce l'ha bianca, solo me la regalava pure a me. Lo conosciamo anche Natalino, gli abbiamo preso diversi esemplari. Sì, ma bianca, non è acca, fissa, adesso è bianca, me l'ha detto, io va, vieni te la prendi, però non è ovvia. Quelli Arlecchino. Sì, ma come si chiamano? Bah, non mi viene. Mosaico. No, non è mosaica. Si chiamano Arlecchino, ma non mi ricordo la prima parola. A quelli con la mascherina rosa stai dicendo? No, sono screziati. Non mi viene il nome. Te ne immaginaci, Natale, i 20 anni. Neanche a me non mi viene. Mi ricordo Arlecchino, però non... Si chiamano Arlecchino Portoghesi. Infatti mi pare una cosa del genere, ecco perché l'ho fissato portoghese. E Arlecchino Portoghesi, mi sono fatto aiutare da internet. Quello era un bel allevamento, poi ordinato, tutte le cose belle ordinate, cioè tutto pulito. Ne ho visto pochi allevamenti così. Ma io vendesi Lori Arcobaleno, chi lo vuole lo faccia sapere, con documenti CITES. Va bene, Gianni. Ehi, a Giovanni. E saluto a te e a chi è in ascolto, d'accordo? Alla prossima. Ehi, a Giovanni, comunque Arlecchino Portoghesi sono quelli che dice lui, va. Ci sentiamo, Giovanni, buona carica. Ciao, prestato a te, dai, buon fine sera. Ciao. Avanti Natali. Ciao Giovanni, ciao, ben sentito, alle prossime. Ciao Natalina, ciao. Natali, a fare da chi si sa Giovanni ti rigara. Ma non mi rammento un dicazzi. Ah, non te la metti più. La vicina a Garroni. Chi susì? Te l'aveva dato la gabbia, te lo ricordi? Te l'aveva dato di più di quelle che ti doveva dare. Sì, già lo so. qualcuno te lo regala pure. Arlecchino portoghese si chiama. Eia, te l'ho detto, sono andato su internet a vedere, l'ho scritto Arlecchino, ma la Canarino Arlecchino, mi ha scritto Arlecchino portoghese. Mia, sono nella gabbia, sì. C'è il video. Già sono messo. Hai visto i filmati che ti ho mandato dalla carrozzina? No. Aspetta che guardo. Aiu, e apri di maledizione. Ti ho mandato due filmati delle calopsite. Piccolina, piccolina. La mamma è bella. Hai visto? Sì, sì. Hai visto quando dice piccolina, piccolina? Piccolina, piccolina. No, le cose mi fa... non ne ho filmati, ma le foto mi hai mandato solo già. Ma non sono filmati, scusa, se non ho visto il filmato. Apri di Mimia, forse è questo video che ho cliccato un link che mi hai mandato. Ma Marco è entrato. Ah, tu sei Marco. Reattivato l'orologio. Sì, ma non sta funzionando bene, si blocca. Si sentiva bene. Fa la scala. Quanto tempo che era anni fermo era. Ma va, batteria o a corda? A corda. E a te c'è la dite di dire a corda. Purtroppo si blocca. Ma è roba economica, sempre roba di provenienza cinese, non sono mica come quei pendoli antichi. Quelli erano fatti bene. Quelli col cucù. No, proprio pendolo. Col gong, come vuoi chiamare. Io poi mi ero assentato già, stavo finendo di mangiare il dolce e tutto, e adesso mi tocca ancora il caffè. Curare, dopo lo do, se cosa mangiate? Tiramisù. No, è il cannolo, quelli con la ricotta, i canditi, mamma mia, non te ne dico niente. Che bastardo, grazie, a me non mi dice nulla. E cannolo siciliano. Ehi, tipo, dai, io gli originali siciliani non li ho mai provati, ma dicono che siano fenomenali, Questi sono quelli di Eurospin, reparto pasticceria. Ho capito. No, io Buzzozzi non li so come niente. Tratta lì, non me li mangio, ti nascosto. Accettare. Poi questo, ad esempio, mi chiedo, è la mutazione cinnamon, o possiamo avere quella perlata, possiamo avere quella pezzata, quella lutina, quella faccia bianca. Ci sono... E che? Propagation. 170 grammi e delle dimensioni intorno ai 35-38 centimetri. Per longevità va dai 15 ai 20 anni. Conti la bigiona mia. A livello di muccia, cosa ti dice? Come se la canarina mia è canzone, comunque. Stavo guardando internet e mi è apparso terremoto, ma non ho capito dove, perché ho girato pagina qui e non sono riuscito a ritornare indietro, nulla sapete. Vediamo se su internet. Aspetta, quelli del barbiere non favidavano, non facevano i migliori, non facevano un cacchio. Vabbè, i miei figli li hanno fatti, già li visti in un muro. E io la giubici, ma che si trova i bene, non abitavano e non facevano i biglioni, non facevano un Kaiser. Ah, perché con i pappagalli bisogna avere molta pazienza. Prima cosa, non bisogna mai costringere a fare quello che vuoi tu. Devi cominciare a metterli per dire da mangiare fuori, loro escono per mangiare e cominciano già a fare amicizia. Cominci così, te li atti con la roba da mangiare, poi ti vengono da soli sulle spalle eccetera, e poi cominciano a acquistare fiducia, allora vengono loro da te, capito? E così cominci a farli parlare, li canti le canzoncine, loro le ripetono. Adesso per dire, i miei loro imitano il fischio delle cose, delle carrozzine, capito? Limitano il fischio. Perché le sentono e allora giustamente ripetono, puzzinosi. Già lo so. Ma sta lì, e sembrano loro precisi, non si capisce se uno o l'altro. È perché loro le sentono e ripetono, capito? E perché quando va sull'armadio io gli metto il braccio e dico aiuto, vieni, aiuto. Adesso lo dico, aiuto, vieni, aiuto, vieni. Diventano curiosi, brutti. io ogni tanto ciao, perché sentono a te dicendo ciao magari a Elena e loro lo ripetono. Poi se fanno quella canzoncina della famigliata, si fischiano. Così fanno. Però non è richiesta, capito? Quando lo vogliono fare loro lo fanno. E io ho visto pappagalli che magari dice come fa il gatto, loro miau, lo fanno, capito? I miei lo fanno quando sono tranquilli, perché sono rilassati e stanno giocando. Poi Simone, io si rivede, Simone la pancia all'aria, la di bisogno che ha sul sangue, Maria Buscio, si mette la pancia all'aria e gioca, no, l'altro con la zappa va e lo tocca e si è così. Sono mezzo. E un giorno vieni a casa e ti faccio vedere cosa fanno. Cazzo, mi so che ci tu dai, giù va tu. Sono andato a fare prima alle 10, c'avevo l'appuntamento per il rinnovo dell'RDC. Poi sono andato a fare la visita dalla diabetologa, contentissima la dottoressa. Dell'analisi bene sono. Benissimo. Io c'avevo solo il colesterolo basso. E no, io tutto a posto. Grazie a Dio. Tanto già ne ho passato poco. Mi ha dato la vitamina D da prendere, adesso la devo prendere. Una boccetta ogni volta che ogni 20 giorni. Ma la mia dottoressa ha detto che noi sardi siamo tutti carenti di vitamina D, che lei non dà manco cure, perché tanto è risaputo che i sardi abbiano questa carenza di vitamina D, è come avere il diabete e i sardi è più diffuso che da altre parti. A chi noi mangiamo bene? Eppure in Africa mi pare, e mangia animali, e mangia i gavadetti. No, noi perché mangiamo di brutto, cosa l'Africa? Noi è che mangiamo a vero, non a buffonenti, è per quello che abbiamo il diabete. Poi tutte le cose buone Natalia, noi si fanno animali, quindi quella è la ragione. Se non c'è altra cosa per me, però io parlo dal mio punto di vista, non c'è altra cosa che la panzetta e lo capocollo al russo, tutto il resto è noia. Per me la pancetta è proprio al massimo, quando è bella croccante, è bella fatta, col grasso che gli è sceso, il grasso come lo croccante, è buono, è buono. Ma il capocollo è meglio. Anche il capocollo è buono. Ho detto, la pancetta è il capocollo, il salsicciolo non lo digerisco, è buono ma non riesco a digerirlo. A me non mi fa nulla. E con tutto che ho avuto la pancreatite, ma già va bene tutto. Tesoro, non ne posso mangiare. Allora io quando facevo il servizio ambulanza prendevano la fenina e me la passavano sotto al naso per farmi venire la voglia di mangiarla. Io non le prendevo perché sapevo che faceva male. Invece l'ho detto al dottore, beh, tu fai una cosa, tu la fenina la mangi, quando ti metto la fetta sotto la prendi e te la mangi, e ti mangi, te ne mangi anche altro, interessante che non mangi altro. Una volta ogni tanto si può fare, ma non si mette a problemi. E oggi sono andato al bar da Coso, alla Moccador, per aspettare fino alle 10, no? Perché prima sono dovuto andare a pigliarmi l'analisi di Rusangu, che non sono riuscito a entrare nel Rusito. Quindi me le hanno date loro, meno male, stamattina presto. Poi mi sono fermato al Moccador dove va Luciano e Guido si è pigliato un bello cornetto, un bello maduro, di un zagato. Mamma mia! La gara delle gi. Ma guarda che i gelati li puoi mangiare, ci sono i gelati allo yogurt che a noi non fanno male, quelli allo yogurt li puoi mangiare, a Platamona li fanno, da Ernesto, e li fanno. Tu vai, ti prendi il gelato allo yogurt e via, ti fanno anche cioccolato, certo non ha lo stesso sapore, Natalia, c'è da dirlo. No, io desidero il gelato, no? Un croissant si è pigliato, vedo maduro. Ah, io pensavo cornetto gelato, capito? E io l'ho detto in italiano, non in francese, sempre cornetto era. No, Vabbè, tu che non ti le bigliaglia. Una volta ogni tanto non ti fa nulla, poi tu dici che mi alta non ne hai, si può dire che ce l'hai sempre regolare, dai. Infatti, mi ne puria cava pure chi sa di la notte. Solo che altri farmaci non gliele posso dare, che lei ha avuto la pancreatite. Facciamo tutto così, dottore, già va bene, tanto io ne prendo poca. Vabbè, se te la togli è quella della notte e va bene lo stesso, non puoi fare la prova, se va male la rifai. No, che mi è... non me la abbassa. Se non faccio l'insulina non me la abbassano. Ma gli rimango. La notti. La notti. Ma gli rimango, invece di mangiarti la pizza come fai sempre. Ma che pizza, che pizza. Una volta ogni morso di pappa la mangio. E di quelle piccole mi non manni. Adesso sotto casa mia ha preso a fare pizze al taglio pure, oltre le pizze grandi. Fa quelle al taglio, ma sono di una bontà buonissime, proprio croccanti, buone, piene di mozzarella dentro. Infatti mi pare che c'è la bugina di giugista, adesso la regrugare e ce ne ordiniamo 4 o 6 e ce le mangiamo. Poi quelle che avanzano, se non ne abbiamo voglia, me le scaldo al microonde e domani mi rimangio e sono buone roba stesse. Tu hai assaggiato il barusicuro, no? Io per il sicuro me ne voglio 4 busi di vino. Ci arriva a due, pure gruppi. Le ne mangia due, no, da voi non ne mangia più. Se tu l'ho detto, vabbè, ne ho mangiato due anche l'altro giorno, gli altri li abbiamo lasciati a fare al microonde. Di domani, siccome il venerdì e sabato non è portato, non è fatto, e quindi si fanno solo quelle grandi. E quindi noi ce le prendiamo in più e poi rimaniamo lì da voi. E se non ho la giugana di mangiarmi la bassa al forno, non mangio mai fatto. Maravigli, mi ucciso, cazzo. E cosa ci vuole Natalia a fare la pasta al forno? Anche io qua non ne ho mai fatto, la faceva Liliana, la faceva qua, e poi non ne ho più fatto, la sa fare anche lei, non è che... è che è troppo ambrosa, capito? È troppo piena, ti dà troppa sostanza, però ti passa la glicemia a 100.000. E che mi l'hai detto? È buono, che è buono, come la faceva mamma, ui ui, la rigascia di bella condita, ui. Non ne fa vedere più, che meglio. Col ragù, la besciamella la faceva, brava la besciamella, la zia Eta. Marco, cosa ne dici tu di questi discorsi? Dico che mi sta ritornando la fame. Marco, lo vedi come facciamo noi diabetici pieni di voglia di mangiare, che anche lì se ci liberano poco a poco ci svuotiamo tutto. La mia glicemia, vabbè, in passato era sempre media, no? Però sai, col passare degli anni e dei decenni, piano piano si sta incamminando verso valori un po' più alti e quindi tutti gli abusi alimentari di adesso li pagherò a breve. Perché? Quanto ce l'hai? Beh, adesso non mi ricordo, le analisi le ho fatte mesi fa, però diciamo che siamo a tre quarti del valore massimo, no? Cioè, se il valore massimo è, che ne do, adesso dico un valore a caso, 100, io sono a 75. Cioè, non puoi dire nulla. 75 è anche bassa, non è uscita a carità. Sì, è a 118 deve essere, fino a 118 è normale. Ma cioè avete capito, io volevo fare il paragone, cioè se il valore normale accettabile fosse 100, io sono a tre quarti di strada, cioè se 118 è il massimo io potrei essere a 90, forse di più. Lascia perdere il cioccolato. Fosse solo il cioccolato, mamma mia, io come prima già ho ricominciato come prima, dolci a furia dura, a tutte le ore della notte, gelati, di vedere lo schifo della notte, quando io non dormo, che ho insonnia, come prima, e coso, yogurt alla frutta, o non alla frutta, gelati, merendine, cioccolato, di tutto, tiramisù se c'è, cannoli, quello che trovo a tiro mangio. razzia vai. Lo so. Se, quando sei gordi così, lo capisco perché anche io un po' lo sono, a me piace di dolci, da talino. È cosa che prima non è che. Sì, li mangiavo, ma non è che cercavo. Adesso si vengo una vetrina tipo come sono andato dallo spino, da MD l'altro giorno, c'era la vetrina che c'erano le paste, le cose. Non ne ha gana di mangiare, non ne ho preso perché se no mi fa male, ma certe volte non resiste, ma la compro. Praticamente un caffè con due cucciarini di zucchero mi rubigliavo, aveva dolcificante, una bustina. E io lo faccio lo stesso, metto due bustine di dolcificanti. Cosa si usa adesso? Fruttosio? No, no, proprio dolcificanti uso. Fruttosio è sempre uno zucchero. Ma che nome ha? Cioè che tipo di dolcificante è? Di cosa è composto? Ci sarà saccaruzio, cosa ne so. Non l'ho mai letto, però prendo il dolcificante, c'è scritto dolcificante, ho meglio che un uomo, non è che ho guardato cosa c'era, ma penso ci sia saccaruzio. Ma voi sentite il suo bip appena premo? Sì, sembra un colpo di martello sul ferro. Sì, esatto. Purtroppo come primi c'è un attimo di... come facesse da monitor un istante, purtroppo si sente. Dove volevo arrivare? Non so perché te l'ho chiesto già, perché una volta esisteva l'aspartame, era tipo in pilloline come dolcificante, poi dopo tanti anni hanno scoperto che era abbastanza nocivo. Vi ricordate questa storia? Sì, me lo ricordo. Ma anche la saccarina non è che possiamo avere. A me mi ha detto questo diabetico, io preferisco mettermi un cucchiaino di zucchero che mettermi questa cosa che fa male, almeno lo zucchero non mi fa male, ne metto un cucchiaino invece che due. Sì, infatti, oppure senza zucchero. No, senza zucchero non lo sopporto proprio, il caffè deve essere un piacere prenderlo, no, non devi fare la smorfia quando te lo colleghi in gui, ma no, no, a me mi piace dolce, dico la verità. Mamma mia, il caffè amaro, guarda, il caffè amaro io ho provato, ma è fiele, proprio fiele, è l'amaro dell'amaro dell'amaro, proprio non lo tollero, è una cosa proprio repellente. Vabbè, se poi ti abiti non lo senti più, però a me mi piace dolce, dico la verità, a me piace così, dolce che si possa bere, dai. Non dico sava, ma deve essere un po' dolce. Adesso organizzo una seminata, già. Cosa? Una seminata organizzo. E dove la facciamo? Già lo so io, non ti preoccupare. Io e il mio vicino di casa la dobbiamo organizzare. Ma cacchi quello che abita sopra di te? No. Pensavo le musica vari minuti. Tipo il maiale, lo vuole appendere, fare dissanguare, poi gli toglie tutti i... Già l'abbiamo fatta una bella campagna tua, cara. Mi farà un brutto fradito, ma ne ha un profumo. Io non credo, che su era buono di pedita, cazzo. Un burro era. No, quello che è di fronte a me, che è un amico mio, un vecchio amico, mi ha detto dobbiamo organizzare una seminata. Di fronte a te. Ma io lo conosco. Via Puglia. Quello che abita sopra. Fra, tu sì. È mancato di colpo mentre parlava. È scoppiato tutto. Franco, Frankenstein. Io lì c'è stato, lì è mancata la luce, come è successo a me l'altro giorno. Vabbè, era di vitello perché io l'avevo preso dove lavoravo, già lo sai, e macellai me l'hanno dato come si deve, dai. Ma le dubbe di coso, di bianco, capito, poco rosso, molto bianco, cannaguro, di tutto, vedi. E dopo Marco, siccome ma ce la fa il mercoledì e noi lo dovevamo fare il sabato, cioè non facciamo una cosa, Natale, lo puliamo, siamo stati tutta la sera pulendolo, girandolo, facendogli passare l'acqua e cose, l'ha fatto bene e poi l'abbiamo messo in freezer, l'abbiamo fatto il sabato, era un burro, ma buono, proprio buono, sembrava appena macellato e fatto. Vitello avete detto? Ehi, è di vitello, ma l'ha fatto, l'ha fatto il barbiere di Siviglia, l'ha fatto bene, dai, l'ha fatto, come si chiama, va, vabbè, il barbiere, quello che modulava, va.